scaveremo un passaio. Ed un mese ormai è finito. Triti al bosco e ne porterà. Dai stanotte che c'ero de luna. Che tempo da perdere dai nemo, col chiaror della luna vedemo, quando metà di pie per scappare, temo attenti a non farsi ciappare. Riusciamo a scappare, se moriva ridesso denare, verso una nuova terra per fare vita onesta senza pirobare. Morive alla terra franca e calata ancora la notte e la ciolla la dice ridendo dai butteva che bella la luna.